Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E 16 minuti, buona giornata a tutti voi all'ascolto. I messaggi sms 349-238-6666 e il numero di telefono come prima cosa 800-24-0024, perché vi coinvolgiamo sempre in questa fascia del mattino. Parleremo infatti oggi di carattere, proprio così, perché proprio oggi che la genetica pone le nostre esistenze in qualche modo sotto la legge dell'ereditarietà, è un po' vero anche che si dubita, ci sono questi genitori insicuri, si dubita più che mai di poter trasmettere qualcosa di noi ai nostri figli. È una frase di Antonio Scurati, candidato al premio Strega, ma che si intreccia bene con un dibattito iniziato ieri dal genetista Edoardo Boncinelli. A dispetto di ogni genoma, noi questo vi chiediamo oggi. Viviamo quasi una sensazione disperante, o almeno molti genitori la denunciano. C'è la rottura del legame tra le generazioni. Sono soprattutto i padri, in particolare i padri, che non si sentono più quasi in grado di lasciare un'eredità ai propri figli. Non stiamo parlando di eredità materiale, naturalmente. Qualunque eredità essa sia, soprattutto con l'aumento delle separazioni, vizi compresi. E allora vogliamo chiedere a voi, a tutti voi, potendo selezionare in qualche modo qualcosa da lasciare dal punto di vista del carattere, se non del patrimonio genetico, della propensione a, perché c'è un nuovo studio che prenderemo in esame, poi ne parleremo alle 9, che parla della possibilità accertata scientificamente o epigeneticamente di trasmettere ai figli i modi di fare negativi, proprio così, il malcostume, la propensione a fumare, la propensione a bere, quelli passano. Ma dovendo selezionare voi tra tutto ciò che è, secondo la vostra insindacabile opinione, la vostra ricchezza, una dote, uno strumento per attraversare la vita da lasciare ai figli, quale selezionereste? Ne parleremo dalle 9. Alle 8:30 invece affronteremo un tema di tutt'altra portata. Cioè, ci siamo chiesti, è possibile che in Italia ci siano detrazioni 15 volte superiori per chi finanzia i partiti e per chi investe nel sociale? Cioè, ci sono più vantaggi nella donazione al partito che nella donazione per la lotta al cancro. Dare 20.000 euro in beneficenza consente di detrarre al massimo 542 euro. Se invece questi 20.000 euro vanno devoluti a un partito, se ne possono detrarre 6.500. Ma è una disparità che si intende sanare? O siamo già nella direzione giusta con la riforma del terzo settore? Oggi lo chiederemo al rappresentante del governo che sarà nostro ospite, cioè al sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Bobba. E partiremo da una denuncia di ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera. Pensate, ha a che fare con la ricostruzione post terremoto di Cavezzo, Emilia. Sembra incredibile, però grazie a una sottoscrizione dei lettori del Corriere del TG La 7, cosa si fa a Cavezzo, Emilia? Si costruisce un polo scolastico con tanto di aule, di palestre, altre infrastrutture, e partecipano in tanti, con fondi, con donazioni e anche con competenze, perché c'è anche chi mette a disposizione come architetto, come urbanista, il proprio sapere, diciamo. E anche lo Stato partecipa, si dirà. No, denuncia il Corriere, lo Stato si fa vivo solo come esattore, cioè reclama l'IVA. Su 3 milioni raccolti reclama 300.000 euro, cioè un'IVA agevolata, certo non quella solita al 22%, è al 10%, ma ci si chiede perché si deve pagare una tassa che non verrà recuperata, perché in quanto sottoscrizioni di lettori e ascoltatori non esiste nessuna partita di giro, c'è l'IVA sulle calamità. Com'è possibile che non si intervenga su una situazione del genere? E questo sarà il tema di Spunti di Vista alle 8:30, 800 24 00 24, il numero di telefono. Anche qui potete prenotare le vostre telefonate già da ora per intervenire ai nostri dibattiti. Noi oggi andiamo altrove. Visti da fuori. E andiamo un po' in Bulgaria, bellissima città Sofia, e un po' a Bruxelles, grazie alla nostra corrispondente Antoinette Nikolova, giornalista bulgara. Buongiorno e benvenuta Antoinette. Buongiorno Irene, a te e agli ascoltatori. E ha scritto per anni, ha fatto corrispondenze per anni per Deutsche Welle, ora è corrispondente di Modern Times Group, corrispondente per Balkan TV, e racconta, Antoinette, sia l'Europa che l'Italia. Ora devo chiederti, con quale frequenza racconti l'Italia, dovendo tu narrare tutta l'Europa? Che attenzione c'è sull'Italia dal punto di vista giornalistico? Dal punto di vista giornalistico abbastanza proficua in Italia, perché una media di 4 giorni su 7 più o meno Italia riesce a produrre una notizia, a differenza di tanti altri stati europei che magari sono più tranquilli o semplicemente hanno meno straordinarietà come quella che presenta la realtà italiana. E recentemente ti sei occupata molto anche di della questione Mogherini in quanto corrispondente da Bruxelles e per Bruxelles. Come è stata accolta questa candidatura italiana dalla stampa europea? Tu che hai un osservatorio particolare ce lo puoi dire. Per la stampa europea diciamo che Renzi è un po' sorpreso con questa candidatura, prima perché Italia già aveva un incarico molto importante con Draghi alla Banca Europea, poi Mogherini era una novità assoluta, un nome abbastanza sconosciuto diciamo per i pubblici osservatori europei e soprattutto per il modo in cui è stato impostato qui in Italia. Per giorni prima della famosa riunione della metà luglio stava dicendo che Mogherini va a Bruxelles, per quelli che stanno a Bruxelles era un po' più strano sentire che va a Bruxelles, visto che Bruxelles la deve prendere prima di tutto. E infatti poi mese che è succeduto abbiamo visto che non era mica tanto facile. Mogherini comunque è stata una vicenda che continua a interessare soprattutto questi giorni, perché si deve decidere sabato. È chiaro, siamo proprio alla vigilia. Comunque il Financial Times dice che c'è grande ottimismo per questo incarico di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza sul fronte europeo, cioè da ieri sera lo si dà quasi per realizzato. L'Italia verrà accontentata in qualche modo nella sua battaglia per la Mogherini, sembra, in questo complesso gioco di equilibrio europeo, perché è complesso, si gioca su diversi fronti. Come potremmo sintetizzarli, Antoinette? C'è da dire che a Bruxelles nelle riunioni niente è deciso finché non è deciso sulla carta definitivamente. Però c'era una candidata bulgara, c'era una candidata bulgara diciamo in gioco. Che, cioè, quella che ci contende il posto con Mogherini è l'attuale commissario per gli aiuti umanitari Kristalina Georgieva, che è la candidata bulgara e rappresenta quell'est europeo che adesso rivendica un posto diciamo di guida nell'Unione Europea. Però c'è da dire anche che ci sono i polacchi che sono ben presentati a Bruxelles ed è uscita oggi una proposta di compromesso da parte di Londra. David Cameron propone Donald Tusk, premier polacco, a posto di presidente dell'Unione Europea in compenso di Mogherini, quindi probabilmente questa volta ce la fa. Beh, vediamo, insomma, non bisogna scontentare Londra, questo si sa, nei grandi equilibri diplomatici c'è un po' di incertezza, sono 28 i paesi come giustamente tu ci ricordi e noi staremo alla finestra e tu ovviamente lo racconterai. Ora vorrei capire, tra Bulgaria e Italia, ultimamente l'attualità, si è creato un parallelo inedito per quel che riguarda l'accoglienza ai migranti, cioè raccontaci un po' cosa succede alle vostre frontiere. Tutti e due paesi sono un confine per il territorio dell'Unione Europea e quindi Bulgaria, confinando con la Turchia, è molto esposta di tutti questi flussi che arrivano dal Medio Oriente e dall'Asia. C'è stato un grande flusso enorme per ciò che riguarda un piccolo paese, un nuovo membro più o meno nell'Unione Europea, non preparato ai fenomeni del genere. E dacci qualche numero per definire la dimensione, almeno come popolazione, la Bulgaria, di quanti abitanti parliamo? Parliamo di 8 milioni e ovviamente di fronte alle cifre che Italia appena hanno annunciato, i numeri di Bulgaria sono molto più bassi, parliamo di una 30.000 immigranti in un anno, però arrivando in un paese così piccolo, con pochi abitanti e con poca esperienza, ovviamente si tratta di un grande fenomeno. E c'è un fatto curioso, che i bulgari stanno costruendo una specie di muro sul confine con la Turchia per contrastare in qualche modo quell'arrivo per terra. Ma questo arrivo via terra avviene tramite furgoncini, in container frigoriferi, avviene a piedi? Raccontaci di più. È un fenomeno un po' che lavora con trafficanti che sono organizzati con mezzi, veicoli più piccoli. E più o meno quello che succede è che si arriva a un punto vicino al confine Turchia-Bulgaria e questi poveracci vanno lasciati per terra. A piedi, scaricati poi. Sì, attraversano via piccoli fiumi oppure colline, eccetera. E perciò Bulgaria va a costruire questo muro. E sono in prevalenza siriani le persone che arrivano dalla Turchia? Un grande numero sono siriani, però ovviamente in questi flussi ci sono sempre persone che non si sa da dove arrivano, come arrivano. Poi c'è un altro fenomeno, alcuni di questi raccontano che sono già spogliati dalle autorità turche con i soldi, con il denaro, e quindi entrano in Bulgaria così, senza nulla. E già Bulgaria, che è un paese con i redditi più bassi dell'Unione Europea, si trova in grande difficoltà a dare quel soccorso umanitario che diciamo questi necessitano. E si sta discutendo molto in questi giorni, soprattutto su sollecitazione dell'Italia, sul riconoscimento dello stato di rifugiato, che al di là del paese in cui si approda possa dare la possibilità a chiunque arriva poi di spostarsi in una sorta di corridoio umanitario in tutti i paesi dell'Unione Europea. È un'istanza in cui la Bulgaria appoggerà l'Italia, questa? Bulgaria sicuramente, però le leggi italiane sono molto chiare. Il primo paese dove uno riceve l'asilo politico è lì che deve stare. Ci sono tanti casi di gente rimandata, perché molti di questi francamente mirano di andare in paesi come Svezia, dove hanno magari parenti e dove il sistema sociale li garantisce molto bene, però la legge europea è molto chiara. Per ora quindi vedremo anche in questo se ci sarà un'evoluzione che tenga presente le caratteristiche nuove dei flussi emigratori. Ora alleggeriamo un po' questa chiacchierata con te, Antoinette, per farti qualche domanda personale. Sei una giornalista che vive in Italia da tanto tempo e vogliamo chiederti se c'è ancora qualcosa che ti sorprende, cioè vivi ancora i cosiddetti cultural shock, o ormai sei talmente integrata da non notare più stranezze del costume e del carattere italiano? Io francamente l'ultimo cultural shock che ho avuto era quest'estate, vedendo i stranieri come si comportano per le strade e per le città italiane. Ci sono stati questi casi di oscenità, di atti di vandalismo, la gente che si spoglia, la gente che si butta nelle fontane, e mi sono chiesta perché queste persone lo fanno in Italia e non magari in Svizzera o in Germania. E devo dirti che non so, magari mi sbaglio, sono arrivata alla conclusione perché un po' anche l'immagine che Italia dà a se stessa, qui un po' tutto permesso e che lo puoi fare. Ecco, questo ancora mi sciocca un po' e mi dispiace, perché io cioè, penso tu sei che convinta che in Germania, in Germania o in Svizzera le stesse persone sarebbero state ben più attente a rispettare le regole? Direi di sì. E questo è dovuto alla percezione che l'Italia dà di lassismo, di poter fare un po' tutto, secondo la tua opinione di italiana di fatto, diciamo così, socializzata italiana. Sì, io penso che delle volte gli italiani sono un po' troppo autocritici, un po' di più degli altri, perché ci sono tanti fatti che accadono anche in Francia, per esempio, però i francesi sono molto più gelosi per la loro immagine. Qui in Italia, direi anche noi italiani, perché mi sento integrata, siamo un po' troppo critici anche esponendo questo davanti al mondo, che quindi diventa poi un'opinione pubblica. Grazie mille Antoinette Nicalova, ci saluti in bulgaro? Grazie. Gianantuanè Nicolova, la nostra ospite di oggi di Visti da Fuori, scrive per Modern Times Group, è corrispondente per Balkan TV, per anni lo è stata per Deutsche Welle, e ci ha raccontato la percezione dell'Italia non solo in Bulgaria ma soprattutto a Bruxelles. E Visti da Fuori ritorna, ci sono ancora due appuntamenti domani e dopodomani alle 8:15. Noi tra poco cambieremo pagina per capire se il fisco in Italia scoraggia la solidarietà. Quali sono le vostre opinioni, quali sono le vostre esperienze? Raccontatecelo all'800 24 00 24. E poi ancora andremo a parlare di carattere dalle 9, aiutati e dalla genetica e dall'epigenetica. Cosa si può trasmettere veramente ai figli, al di là del colore degli occhi o dei tratti somatici naturalmente, e potendo selezionare voi un solo elemento da lasciare alle generazioni future, quale prendereste, quale scegliereste? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Otto e 36, ancora un saluto da Irene Zerbini, un saluto a Luigi Bobba. Onorevole Bobba, buongiorno. Buongiorno. Pronto, la sentiamo bassa, che succede? Pronto? Mi sento, io ecco, lo sento bene. Ecco, buongiorno. Ora è arrivato. Lei è sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ovviamente sta girando l'Italia per parlare di articolo 18, uno dei temi caldi di questa attualità agostana, ma noi la scomodiamo per un altro tema. Immagino abbia letto, abbia ben presente la situazione denunciata dal Corriere della Sera ieri in prima pagina. Certo, ho letto l'articolo. Allora, riassumiamolo per chi non l'avesse fatto. Praticamente cosa è successo? Nel post terremoto, una encomiabile sottoscrizione del Corriere della Sera e degli ascoltatori del TG La 7 raccoglie fondi per costruire un polo scolastico a Cavezzo, in Emilia-Romagna, uno dei paesi più colpiti. E si procede alla costruzione. Abbiamo visto il rendering di alcune parti, abbiamo visto un campus eccezionale, palestre, infrastrutture, insomma scuole. E però ieri una denuncia proprio molto sentita da parte del Corriere, che dice: attenzione, invece di avere, noi ringraziamo tutti perché in tanti hanno partecipato con donazioni, con competenze, c'è chi come l'architetto Renzo Piano, architetti della sua fondazione, hanno offerto consulenze gratuite, cioè quindi non solo denari, e poi lo Stato si fa vivo per cosa? Per chiederci l'IVA al 10%. Ora è chiaro che chi paga l'IVA e in generale la carica sulla merce acquistata, la scarica su quella venduta, è un giro e va bene, una partita di giro si dice, ma per benefattori e non solo noi, questi sarebbero 300.000 euro che invece di finire come intenzione di chi li ha donati ai terremotati, alla ricostruzione, si perdono, una gabella assurda in caso di calamità. E questo vale anche per l'acquisto di ambulanze, cioè è una situazione che associazioni e fondazioni che operano nel sociale conoscono bene. E siccome questa storia, ha ragione il Corriere a dirlo, riguarda tutti noi, l'abbiamo scomodata stamattina, onorevole Bobba, per capire, ma com'è possibile? Non c'è proprio possibilità di evitare una cosa che cozza proprio con il senso comune come questa? Ma guardi, lei saprà sicuramente che il governo è particolarmente impegnato su iniziativa dello stesso Presidente per una riforma di tutto il mondo che riguarda il volontariato, le associazioni, il non profit, insomma sì, quello che viene chiamato terzo settore, ed è stata varata proprio a fine di luglio una delega, un disegno di legge delega che è stato presentato e annunciato alla Camera proprio ieri, 26 di agosto. Con questa delega noi vogliamo fare diverse cose, tra le quali anche rimettere le mani a quella selva di norme, normette, spesso anche norme secondarie, circolari, regolamenti, che riguardano tutto il tema fiscale relativo alle attività che non hanno una finalità di lucro, che sostengono opere di solidarietà, che insomma sono finalizzate a un interesse generale, non a un interesse privato. E quelle che si chiamano, sono note, insomma, si rimbalzano sulla stampa come terzo settore, diciamo così. Sì. Sì, e infatti voi, cioè, dovendo riassumere alcuni dei filoni di questa legge delega che vuole semplificare e riordinare la materia, quali sono le direttive, gli interventi principali che farete? Ma sostanzialmente sono quattro interventi principali. Il primo appunto è di semplificare la vita alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso un intervento sul codice civile, riordinando la modalità di avere, diciamo, ricevere la personalità giuridica per poter operare in modo con una responsabilità propria. Il secondo punto è avere un registro unico nazionale di tutte le organizzazioni che hanno come riferimento il terzo settore. Oggi ce ne sono troppi e spesso in questa confusione, selva, lei dice, in questa selva si insinuano anche coloro che con l'interesse generale poco hanno a che fare. Terzo è proprio quello di rimettere mano a tutta questa norme che ci sono nel campo fiscale, perché non sempre, diciamo, i benefici vanno propriamente a coloro che effettivamente lo meritano, no? Il caso che è stato sollevato dal Corriere è chiaro che è un caso in cui è evidente e manifesta l'utilità sociale, l'impatto sociale che quell'opera e dunque il beneficio che ne deriva alla comunità è particolarmente evidente. Naturalmente in quella, prendendo ad esempio quel caso lì, bisognerà valutare a chi attribuire il beneficio fiscale, perché probabilmente se quelle sottoscrizioni sono state fatte ad una onlus, ad una organizzazione non lucrativa, probabilmente un beneficio è già avvenuto a vantaggio del donatore. Oggi c'è una detrazione fino al 19% per coloro che fanno dei versamenti fino a un importo massimo di 2.000 euro ad una organizzazione che abbia questa finalità. Ma certamente anche il tema, per esempio, dell'IVA da applicare, molti casi sono stati sollevati, ad esempio le autoambulanze che vengono acquistate dalle organizzazioni di volontariato che fanno questi servizi, insomma è un tema molto, un nervo scoperto che va affrontato, e probabilmente ci sono soggetti che non hanno, diciamo, sicuramente la meritevolezza, diciamo così, di avere un beneficio fiscale, penso, non so, ai 74 circoli del golf che sono beneficiari del 5 per 1000. Sì, sì, ma lasciamo perdere, lo sappiamo, onorevole, ci sono senza dubbio anomalie, distorsioni, ma delega, sul caso specifico adesso, c'è, cioè, questa scuola di Cavezzo, bisognerà vedere, eccetera. Il terremoto è avvenuto 2 anni fa, cioè di tempo per pensare a deroghe, per esempio, potrebbero. Il tempo c'è stato. Che farete con questi 300.000 euro di IVA? Sollecitano anche i nostri ascoltatori via SMS. È possibile istituire una deroga per questo caso specifico? Lei ha detto il beneficio della comunità è riconosciuto, in dubbio. C'è anche un altro beneficio. Pensiamo se questi edifici scolastici avessero dovuto essere ricostruiti con i soldi dei contribuenti. Cioè, non può essere contabilizzato anche come risparmio per lo Stato un intervento di questo genere? Ma guardi, in tutte le zone terremotate sono state fatte, diciamo, delle regole normative generali, no? Che hanno a che fare con anche il tema del fisco nei confronti dei cittadini e delle imprese, quindi il tema, diciamo, terremoto ha una sua valenza più ampia del caso singolo. Se adesso invece si vuole ragionare sulla, diciamo, possibilità di introdurre delle forme anche agevolate di IVA, come avviene per esempio per le cooperative sociali che fanno inserimento lavorativo di persone disabili, allora è uno dei temi che sicuramente dentro la delega noi abbiamo. Non credo che si possa procedere semplicemente per singole deroghe, altrimenti, diciamo, rischiamo, diciamo così, di fare una normativa con troppe deroghe, alla fine non con un criterio. Il problema è trovare dei criteri affinché, diciamo così, coloro che perseguono effettivamente un interesse generale, che producono un impatto sociale positivo, come nel caso della scuola di Cavezzo, abbiano effettivamente un riconoscimento anche dal punto di vista fiscale. Io capisco, onorevole, la sua preoccupazione sull'eccesso di deroghe. Questo caso è significativo però, e lo sottolinea bene anche l'articolo del Corriere, proprio per le migliaia di persone che si sono mobilitate, cioè l'engagement, come si dice adesso sempre in inglese. Sì, però ci sono tante... Non voglio togliere nulla alla meritevolezza di quell'opera, di questa sottoscrizione. Ce ne sono altre migliaia di, diciamo così, di opere che sono state realizzate sempre con il sostegno di singoli cittadini o comunque di diverse realtà e che hanno prodotto un impatto sociale. Noi dobbiamo fare una norma che abbia una valenza di carattere generale, non possiamo evidentemente fare norme, diciamo, solo su un singolo caso sicuramente rilevante. Dico che il caso solleva un evidente problema di come redistribuire o come utilizzare al meglio i benefici fiscali, finalizzando questi stessi benefici proprio a sostenere quelle opere, quelle attività, quelle organizzazioni che sono in grado di generare qualche cosa che è un evidente bene per la comunità, insomma, credo che rimanga con noi che naturalmente completeremo questo tema. Intanto, prima di dare la linea al traffico, vi segnalo alcune delle distorsioni, insomma, diciamo così, difficili da concepire per il cittadino comune. C'è un'associazione, si chiama Essere Rive Vergara, ce lo segnalano adesso. Grazie a un benefattore, sabato donerà 1.000 euro, quindi stiamo parlando di cifre più contenute, ma con la lente di ingrandimento, mutatis mutandis, il principio è questo: 250 per quattro studenti uscite dalle medie di Rive Vergara con i voti più alti. Ecco, saranno degli assegni. Su questa cifra l'associazione toccherà pagare il 25% in tasse, ce lo segnala un ascoltatore, ed è un'altra di quelle normative fiscali che sembra scoraggiare chi vuole impegnarsi nel sociale in Italia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Equità, fiducia nelle istituzioni, sono tantissimi i temi che ci segnalate, che si intrecciano naturalmente a quello che stiamo prendendo in esame questa mattina. E con noi c'è il consigliere dell'Associazione Italiana Fundraiser, componente del consiglio direttivo della Scuola di Roma, fundraising.it. E tra l'altro, quindi, una esperienza molto vasta in molti settori dell'investimento nel sociale. Andrea Caracciolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ora, ha sentito a cosa ci ha raccontato anche il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è ancora con noi, Luigi Bobba, e che ha ricordato che questo governo sta prendendo in mano il terzo settore, sta facendo un riordino in una serie di norme, in una serie di procedure per ottenere la personalità giuridica, organizzando un unico registro degli enti, che credo sia un'iniziativa più che, come dire, reclamata e benefica. Poi però mancano ancora altri interventi che renderebbero molto efficace l'investimento nel terzo settore. Cosa servirebbe per far sì che l'investimento nel sociale, anche se chi dona spesso non lo fa assolutamente per la defiscalizzazione, cioè non lo fa per quegli sconti che qualcuno può ricevere a livello di tasse, senza dubbio non è questa la leva principale, però si potrebbe rendere conveniente impegnarsi nel sociale anche grazie a interventi di questo tipo. Lei, potendo, quale sarebbe quello a cui dare la priorità? Beh, allora, questo è un tema molto interessante, come già stato detto, insomma, sicuramente la questione dell'IVA è una delle questioni, poi dopo sono state anche citate, no, al riguardo le questioni della deducibilità, e invece il 5 per 1000 con il suo tetto e per la ora mancanza di stabilizzazione certa di questo strumento. Diciamo che sicuramente apprezziamo il fatto che il governo abbia deciso di mettere mano con questo Civil Act al cosiddetto terzo settore. Il problema sicuramente è che, almeno da ciò che è emerso oggi rispetto al Civil Act, è che si parla ancora di provvedimenti possibili grazie alla copertura economica, e questo sicuramente di nuovo tende un pochino a sminuire questo settore, nel senso che poi dopo dobbiamo capire cosa intende il governo oppure lo intende come il fratello povero, il compagno povero del resto del mondo produttivo, e che non quindi si dà nella misura in cui c'è qualche cosa che avanza. Diciamo che noi avremmo invece bisogno di piccoli aggiustamenti, ma di investimenti economici, politici e culturali sul futuro del welfare, sapendo che questi appunto produrranno vantaggi economici enormi per la finanza pubblica e soprattutto per l'economia delle famiglie. Poi diciamo che qui allora le misure potrebbero essere tante, sicuramente una è quella che avete già detto, quella di liberare il fundraising dalla incoerenza e dai paradossi giuridici e fiscali. Perché appunto questo poi dopo non danno, tendono a limitare anche l'azione delle organizzazioni. Quindi insomma quello che noi vorremmo sarebbe che si liberassero il fundraising da questi lacci, e questo permetterebbe un maggior accesso al mercato con regole comuni che valorizzino la qualità e non il profilo giuridico tributario delle organizzazioni, perché appunto la configurazione di essere solo una onlus poi dopo non dà certezza di qualità, e invece noi vorremmo che fosse riportata anche in questo senso la qualità al centro dei poi vantaggi fiscali a cui uno può accedere. Ma l'IVA dunque è uno dei problemi nel caso di questa attività. Quali sono gli altri che segnalate, uscendo un attimo dalla descrizione tecnica delle personalità giuridiche? Certo, allora sicuramente il primo è quello sui livelli di agevolazione fiscale della donazione. Negli ultimi 10 anni sono stati appunto emanati circa 30 norme diverse sul livello di defiscalizzazione. Questo sicuramente non aiuta il donatore, anche questo livello del 19% fino a un massimo di 2.000 euro. Sembra quasi che si voglia sempre creare una barriera in più, una difficoltà in più, e non agevolare o rendere più semplice la donazione. Poi abbiamo quella questione del 5 per 1000 che ad oggi non è ancora stato stabilizzato, adesso pare che col Civil Act venga reso più certo e venga reso strutturale. Però di nuovo si parla sempre solo lì dove ci sia copertura economica, e questo evidentemente crea dei problemi, perché poi dopo se noi vogliamo fare raccolta fondi con il 5 per 1000 bisogna pianificare investimenti in comunicazione, in pubblicità. Ma è ancora vero, Caracciolo, perché chi dona per esempio ai partiti ha delle detrazioni di 15 volte superiori di chi dona non so, alla lotta al cancro piuttosto che ad altre situazioni di non profit? Ma assolutamente sì, è anche la questione poi dopo dello strumento con cui l'equivalente del 5 per 1000 rispetto ai partiti politici è stato istituito in 448, mentre sul 5 per 1000 ancora non siamo arrivati a stabilizzarlo come strumento, e quindi ogni anno siamo lì a domandarci ci sarà o non ci sarà il 5 per 1000 e con quali tetti, anche perché l'anno un paio c'è stato ultimamente c'è stato il fenomeno, no, in cui sono stati sottratti al 5 per 1000 80 milioni di euro per darli alla ricerca sulla SLA, per carità, una causa sociale nobilissima di cui adesso se ne parla particolarmente anche per la moda del Light Bucket Challenge, però poi dopo su quali criteri è stata presa questa decisione? Non è anche quello un pochino l'autorità del donatore che ha deciso a quale organizzazione dare il proprio 5 per 1000. Onorevole Bobba, e dunque ha sentito molte le sollecitazioni che vengono da questo mondo, adesso Caracciolo ne ha sintetizzate un po', sono tantissime, se lei leggesse quelle che ci arrivano i nostri ascoltatori via SMS, e i toni non sono molto edificanti naturalmente su quanto ha preso questa mattina, soprattutto per un nervo così scoperto come è stato quello del terremoto in Emilia. E dunque si può prendere un impegno concreto di questo governo in questa direzione, al di là della riforma del terzo settore, per eliminare per esempio la disparità con le esenzioni concesse a chi versa un partito? Ma guardi, intanto per quanto riguarda i versamenti ai partiti, la percentuale, diciamo così, di detrazione è stata equiparata a quella delle organizzazioni, diciamo, associative volontarie. Diversa è solamente la franchigia, cioè il quanto si può versare. Il cambiamento è stato fatto di recente, quindi non c'è, diciamo, più un vantaggio maggiore da un punto di vista di quantità della detrazione. Di recente quando, scusi onorevole? L'anno scorso, a fine dell'anno scorso, quando è stata modificata la legge sul finanziamento dei partiti ed è stato introdotto anche il cosiddetto 2 per 1000 per quanto riguarda i partiti. Rimane ancora una diversità, diciamo, della quantità. Io a un'organizzazione associativa volontaria posso donare fino a 2.000 euro, sì. Per un partito posso donare fino a 10.000 euro, diciamo, quindi diciamo c'è una diversità che riguarda invece, diciamo così, non la percentuale. Però al di là di questo credo che il tema che è stato sollevato abbia una sua rilevanza quando si dice non bisogna solo guardare il profilo giuridico delle organizzazioni, ma la qualità delle opere che vengono, degli interventi che vengono realizzati. È proprio, se si va a leggere il testo del disegno di legge delega, è proprio uno dei criteri che è stato indicato, cioè non basta solo avere un'organizzazione senza scopo di lucro, bisogna che questa produca effettivamente un interesse generale e un impatto sociale effettivo attraverso la sua azione e le sue opere. Proprio questo sarà un criterio discriminante nel, diciamo così, redistribuire o distribuire, diciamo così, questi vantaggi fiscali. Secondo, sempre nella delega si rimette mano anche tutto il tema del 5 per 1000, sia, diciamo, introducendo una stabilizzazione del meccanismo, sia rimuovendo il tetto, e c'è una specifica norma che rinvia alla legge di stabilità. Grazie onorevole, abbiamo 30 secondi e dunque non si pensa per ora di eliminare l'IVA in caso di attività e risanamento di strutture post terremoto, è un caso specifico che rimane così. Comunque grazie per il suo intervento, noi diamo la linea al GR e concluderemo con questo tema naturalmente dopo le notizie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Gli orrori del fisco, 906 in un paese di evasori. Poi però, quando si fa qualcosa nel sociale bisogna versare l'IVA fino all'ultimo. Lira si diceva una volta, oggi centesimi. Buona giornata da Irene Zerbini. Siamo partiti da una sorta di paradosso fiscale che ancora esiste, forse ci metterà mano questo governo, sicuramente attribuibile ai predecessori, eccetera. Però appare stranissimo quanto denunciato su situazioni post-terremoto e investimenti nel sociale, fatti tra l'altro con sottoscrizioni di migliaia di ascoltatori del TG La 7, di lettori del Corriere della Sera. Stanno per costruire case, palestre, centri con alberi, rendere in bellissimi a Cavezzo, uno dei paesi più colpiti del terremoto in Emilia, e si ritrovano lo Stato che non è che bussi alla porta e dica, come si fa anche altrove, per ogni euro che voi avete messo, visto che noi abbiamo risparmiato, ve ne diamo altrettanti o 50 centesimi. No, pagateci l'IVA. L'IVA che, mancando una partita di giro, è completamente, andrà completamente perduta. Di questo torniamo a discutere tra poco. Vi ricordo che poi Spunti di Vista si occupa di cattive abitudini, sono ereditarie o meno? Perché questo è quanto sollevato ieri dal genetista Edoardo Boncinelli, ma si tratta di tirannia dei geni quando ci comportiamo male, come si comportava nostro padre o come si comportava nostra madre. La volontà può battere la genetica, la propensione a fumare, a tradire, a mangiare in eccesso, a bere, a urlare, a rovinare, a barare, insomma tutti i vizi del mondo, mettiamoceli dentro. Questo si stanno chiedendo nuovi studi che arrivano dall'Australia. Intanto però noi vorremmo chiedere a voi, declinato in positivo, se poteste salvare una sola caratteristica da trasmettere ai vostri figli, visto che in mezzo alla tirannia della genetica c'è anche questa esitazione dell'essere genitori, questa timidezza dei padri, questa frustrazione dei padri che si sentono a volte, anche se più partecipi alla vita quotidiana, sempre meno protagonisti di ciò che sarà il destino dei figli, potendo scegliere, potendo selezionare una caratteristica per vivere, per attraversare l'esistenza. Quale selezionereste? Potete prenotare le vostre telefonate all'800 24 00 24. E Ritorniamo con Andrea Caracciolo. Dunque, lei che si occupa di fundraising ed è membro del consiglio direttivo dello European Fundraising Association, cosa si fa all'estero? Cosa fa all'estero lo Stato per incentivare il non profit? Perché si può dire che in Italia il fisco scoraggia la solidarietà molto di più che altrove? Beh, ma questo non è solo il fisco che lo fa, sono tanti apparati dello Stato che ci creano delle difficoltà, perché sicuramente da un lato possiamo parlare, no, dei diversi livelli di defiscalizzazione che ci sono in altri paesi, che evidentemente poi dopo incentivano anche la voglia di donare, ma per esempio anche rispetto al 5 per mille noi oggi non siamo in grado, non possiamo ricevere i dati di chi ci devolve il 5 per mille, quindi non possiamo stabilire poi dopo una relazione con questi donatori. Lo stesso discorso per esempio si può fare con gli SMS solidali. Pensate che ad oggi alle organizzazioni non vengono dati i dati di contatto di chi fa una donazione attraverso l'SMS solidale, quando invece per noi sarebbero fondamentali, anche per poi dopo per poter ringraziarli, ma anche semplicemente renderli partecipi, fargli rendicontare come utilizziamo, certo, le risorse che ci vengono date. Far loro sapere come sono stati poi utilizzati i denari versati, è chiaro. Ma è com'è possibile che ancora non si possa fare un distinguo sull'IVA per chi compra un'ambulanza e chi compra un immobile per sé o per lucrare? Beh, questo è semplicemente una volontà che poi dopo deve mettere in pratica lo Stato, perché poi dopo queste sono le policy che uno Stato deve mettere in atto e facilitare appunto o abbassare. Pensate che a livello europeo in verità, ma poi dopo sono anche le stesse organizzazioni che poi dopo ne fanno un problema relativo, perché non è che hanno una grossa capacità di lobbying rispetto a queste attività. Pensate che a livello europeo esiste un'organizzazione che si chiama ECBAS, che è lo European Charities Committee on BAS, cioè un organismo delle organizzazioni non profit che si batte per uniformare appunto i livelli di IVA a livello comunitario. E in questo ECBAS, che è questo organismo europeo, pensate che l'unico soggetto italiano che è presente è l'ACRI, l'Associazione Casse di Risparmio Italiane, quindi le banche, essenzialmente le fondazioni di origine bancaria. Quindi il tema poi forse interessa solo nel momento in cui dopo va a incidere sul portafoglio, diciamo, no? In questo caso sulle donazioni che vanno, sui soldi che vanno a favore di un progetto, di una causa sociale. E invece sarebbe utile che poi dopo anche su questi temi il nostro mondo fosse più presente e dicesse la sua. Grazie ad Andrea Caracciolo. Vorrei sentire anche l'opinione di un commercialista, Marco Di Martino, che saluto e ringrazio, buongiorno. Perché dal punto di vista fiscale sono state citate diverse situazioni che urlano vendetta al buon senso, cioè molti di noi non eravamo a conoscenza di quanto la defiscalizzazione fosse assente dalle operazioni non profit, cioè uno vuole investire nel sociale e poi si ritrova a tetti, si possono donare fino a 2.065 euro e non di più, e oltre i 2.065 si hanno delle situazioni di detrazione, per cui se i soldi, per esempio donando 30.000 euro a una onlus, tu potrai detrarre solo 537 euro, se li doni a un partito ne puoi detrarre 7.800, cioè queste sono tutte materie che voi commercialisti conoscete bene, ma che sono veramente allarmanti per il cittadino comune. Com'è possibile che esistano queste distorsioni, queste disparità? Buongiorno a tutti innanzitutto. Buongiorno Di Martino. Buongiorno a voi. Diciamo che l'esempio che avete portato di disparità di trattamento ovviamente è lampante e diciamo non merita alcun commento, o meglio il commento è automatico, anche perché il sottosegretario si poneva il problema di creare una norma generale, ma una norma generale basterebbe mettere in correlazione da un lato chi si occupa di realizzare l'opera e dall'altro lato la tipologia dell'opera che è meritevole di interesse pubblico, e prevedere una norma, diciamo, o meglio una deroga, una norma generale relativamente a questi tipi di opere a seconda da chi vengono fatte. È evidente che poi queste situazioni gridano ancora più vendetta quando vengono messe in correlazione con invece le agevolazioni previste per chi effettua delle donazioni ai partiti. perché mi permetto di far rilevare che con la legge numero 13 del 21 febbraio 2014, e non mi risulta che ce ne siano state successive, se prima è vero che il limite massimo di detraibilità per le donazioni fatte ai partiti era di 10.000 euro a fronte di 2.065 euro per invece le donazioni fatte alle altre onlus di iniziative umanitarie, religiose, laiche, e la percentuale era uguale del 24%, con la legge del 13 del 21 febbraio 2014, mentre è rimasta invariata la detraibilità e in termini di limite massimo, in termini di percentuali per donazione alle onlus, relativamente ai partiti il limite massimo e il limite minimo è stato abbassato, nel senso che è stato portato da 30 euro a 30.000 euro e la percentuale è stata aumentata al 26%. Quindi è evidente che con questa legge abbiamo da un lato donazione alle onlus, limite massimo 2.000 euro e 24%, dall'altro limite massimo 30.000 euro e 26%. A livello di detraibilità e deducibilità, che sono due questioni diverse ma che poi vanno a incidere alla fine con quanto il cittadino paga, e lei ha sentito, oggi ci siamo occupati di questa iniquità di chi si è impegnato per far risparmiare lo Stato, poi, perché quando siamo partiti dall'esempio di Cavezzo segnalato dai sottoscrittori del Corriere della Sera e delle scuole, della palestra, del polo scolastico, ci si immagina questo balzello assurdo di 300.000 euro sulla, chiamiamola beneficenza, ma è stato un investimento sociale perché un'intera comunità ne trarrà vantaggio. In un paese come il nostro, dove abusi, illegalità sono diffusi, e dobbiamo scoprire queste assurdità che poi non vengono sanate, cioè, perché basterebbe un impegno personale, una deroga, poi si teme, come abbiamo sentito dalla voce del sottosegretario, che ci sia un eccesso di deleghe, ma quando ci sono disastri e calamità di questo tipo si può anche invocare l'eccezione, io dico. Ma al di là di questo, quali altri elementi di iniquità esistono nel meccanismo, sinteticamente, dottor Di Martino, della deducibilità e della detraibilità per il contribuente italiano? Ma più che diciamo situazioni di iniquità, si vede palesemente la volontà di andare a ridurre possibilità di detrazione e quindi a, da parte dell'amministrazione finanziaria, recuperare risorse su determinate spese di privati cittadini a fronte di un riversamento di queste risorse su diciamo spese dei cittadini fatte nei confronti di soggetti che evidentemente sono considerati meritevoli di maggiore interesse, ad esempio i partiti politici, perché nel corso degli anni si è visto progressivamente sempre una riduzione della possibilità di detrarre. Ad esempio, il banalissimo contributo al Servizio Sanitario Nazionale che viene pagato nelle assicurazioni di responsabilità civile delle auto, delle moto, che era prima interamente deducibile senza limite, è stata messa una franchigia di 40 euro e questo importo è un importo estremamente esiguo che fa sì che chi non ha più di una polizza non potrà, ad esempio, è un esempio banale, però significa che si è voluto andare a recuperare la deduzione di 40 euro per ogni singolo cittadino, così come è stato più che dimezzata la detraibilità delle polizze sulle assicurazioni vita e morte, che è passata da oltre 1.200 euro a 630 euro. Grazie a Marco Di Martino, abbiamo allargato un attimo anche su queste tematiche. Ci si chiede comunque perché lo Stato, invece di favorire il cittadino o l'azienda che gli fa risparmiare milioni di euro, pretende da questi una tassa. C'è tutto il settore del non profit, c'è il settore di chi investe nel sociale, avete sentito dagli ascoltatori, perfino coloro che istituiscono, donatori privati, un assegno per gli studenti più meritevoli della loro realtà devono pagare la tassa su quell'assegno. Sono naturalmente delle realtà, delle situazioni che scoraggiano invece che incentivare chi dona al non profit. Noi chiudiamo questa pagina perché ora entriamo nel secondo tema di Spunti di Vista di oggi. Saluto Paolo Corleone in regia, Peter Bescapè che ci ha seguito per la prima parte, e vogliamo parlare infatti di carattere. Che cosa trasmetterei a mio figlio? Ci segnala un ascoltatore, perché questa è la domanda che vi abbiamo fatto. Poteste voi trasmettere qualcosa a vostro figlio, un unico elemento? Cosa gli dareste? Beh, una canzone, ci segnala Gianfranco. Forever Young di Bob Dylan è qualcosa che lui ha tenuto a trasmettere ai figli. E ci sono poi coloro che ci parlano di ottimismo. L'ottimismo è la leva più importante, lo strumento più importante di cui dotare i figli. E quindi, ora che la genetica pone le nostre esistenze sotto la legge dell'ereditarietà, ci sono tanti di noi genitori, e soprattutto sembra che questa timidezza riguardi i padri, questo almeno secondo la segnalazione dello scrittore Antonio Scurati, dubitiamo fortemente, più che mai, di poter trasmettere qualcosa di noi ai nostri figli. Al di là del genoma, sembra si sia rotto questo legame tra le generazioni. I padri di una volta erano ben più sicuri di lasciare, come dire, un imprinting in quello che sarebbe stato il comportamento, dunque l'eredità, non solo a livello cromosomico o a livello materiale, dei propri figli. Qualunque questa sia, vizi compresi. E cosa succede comunque a livello di genetica e dintorni, diciamo così? Noi tra poco daremo la parola all'autore dell'articolo di ieri sul Corriere della Sera. Sentiamo brevemente Marco. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Marco, ci dica. Io vorrei essere in grado di lasciare a mio figlio il concetto di ottimizzazione etica. Cioè? Cioè, il discorso è un pochino lungo, ma proviamo a sintetizzarlo. In soldoni, partendo dal concetto che il lavoro nobilita l'uomo. Quindi bisogna impegnarsi nella vita per ottenere risultati. Bisogna fare dei sacrifici per ottenere il giusto compenso. Questo però, durante il percorso, noi dobbiamo cercare di ottimizzare i risultati attraverso l'idea di massimo risultato con il minimo sforzo. Però si deve andare ancora oltre: massimo risultato con il massimo sforzo. Cioè, e questa è l'ottimizzazione declinata all'etica, secondo il nostro ascoltatore. Da dove chiama Marco? Io chiamo da Orte, in provincia di Vitruvio. E ci sono i suoi figli all'ascolto? No, perché io sono separato, i miei figli stanno vicino a Faenza. Può darsi che siano all'ascolto comunque, perché ci sembra molto interessante quello che lei vuole trasmettere loro. Grazie per questo intervento e per i vostri, lo ricordo, 800 24 00 24. Salutiamo il professor Edoardo Boncinelli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Lei è fisico, è genetista, però è anche psicanalista, e pochi lo sanno. Il suo articolo di ieri ha suscitato molte reazioni sul Corriere della Sera. Proviamo a ripercorrerlo insieme. Innanzitutto, lei sta dicendo che i figli ereditano il carattere dei genitori, vizi compresi? In parte. La domanda era più precisa. L'amore per il bere, l'amore per il fumare e le cattive abitudini alimentari sono originali di ogni individuo o si pigliano dai genitori? E la risposta sembra che sia: si pigliano dai genitori. Si prendono dai genitori, quindi sembra che non ci sia quasi spazio così per la volontà, no, professor Boncinelli? Beh, in realtà bisogna sempre fare questioni di numero, perché penso che avere una imprinting genetico del 40% non esclude l'altro 60%. Ma lei parla di fa riferimento all'epigenetica. Che cos'è questa epigenetica? Ma fino adesso si parlava solo di genetica. Un gene non c'è, oppure è difettoso, e quindi l'effetto si vede e si trasmette alla prole. L'epigenetica invece considera quei casi in cui il gene c'è, non è difettoso, ma è spento, o perché trasmesso spento, o perché spento durante lo sviluppo, durante la crescita. Questa è una novità, diciamo, degli ultimi 20 anni, che ci permette di capire più cose di quelle che capivamo prima. Lei dice che questo fenomeno dell'epigenetica è molto di moda, occorre quindi prendere cum grano salis questo esatto, tipo di studi. Esatto, bisogna, tutti gli studi scientifici vanno presi con le pinze, soprattutto se riportati dai giornali, però certe volte le mode vanno ancora più prese con le pinze. Se se ne parla ancora fra 5 anni sono vere, altrimenti non sono vere. Beh, mi sembra molto pragmatico come approccio per selezionare quali studi valgano e quali no, professor Boncinelli. Oggi c'è una reazione al suo articolo in prima pagina del Foglio, perché quando ripetevi, racconta Annalena, questa giornalista che scrive, non sarò mai come mia madre, eri certo che ce l'avresti fatta, cioè avresti ereditato solo il senso dell'umorismo, il sorriso bello, la curiosità per il mondo, la voglia di ballare, ma non avresti mai ereditato i difetti, i vizi, l'ansia, la paralisi davanti agli ostacoli. Ma succede che poi ci si accorga di questi geni che invece abbiamo, secondo l'epigenetica, a volte rimangono spenti nella seconda parte della vita, cioè molto lontano dai 20 anni? È molto più probabile, infatti, perché i geni sono monotoni, dicono sempre la stessa cosa, mentre l'ambiente varia da una botta a destra e una botta a sinistra. Col passare degli anni, già quando poi si parla di 60-70, i caratteri genetici vengono a galla, mentre le cose della vita si sbiadiscono e si diluiscono. Ci sono i nostri ascoltatori, senta cosa trasmetterebbero ai figli potendo scegliere quale gene accendere. La fede, dice Andrea, l'onestà e il rispetto, secondo Roberto. Altri dicono una buona dose di machiavellico cinismo, perché quello serve per vivere. E Carmen invece parla di amore per lo studio e amore per la cultura. E poi c'è chi dice comunque non è vero questa teoria, perché per esempio io e mia moglie non diciamo mai parolacce, ma i nostri figli le imparano da amici e compagni. Sente quanto il desiderio comunque di trasmettere mitezza, empatia, rispetto, amore per la cultura prevalga sempre sui genitori, e invece poi inconsciamente trasmettiamo anche tutto il resto, professor Boncinelli. Ma guardi, se io dovessi scegliere sì, per un figlio sceglierei la gioia di vivere. Meraviglioso. Non c'è nient'altro che vale la pena. Però siccome sono un professore, e allora devo mettere anche un po' di amore per lo studio e per la cultura, però l'importante è la gioia di vivere. Grazie al professore Edoardo Boncinelli, che ci ha illuminato ancora una volta con questo intervento molto umano, nel senso di umanesimo, perché sempre al confine tra la genetica e quelle che poi sono le ricadute anche nella vita quotidiana. E noi vi abbiamo chiesto oggi, ma dovendo trasmettere ai figli una cosa e una cosa sola, ne abbiamo elencate alcune che ci state scrivendo, 349-238-6666, questo è il numero degli sms, e poi 800 24 00 24. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Roma, da Nettuno. E ha figli? Ho una figlia di 4 anni e un figlio di 4 mesi. E si è mai posto questa domanda, questo problema? Sì, al di là dell'eredità prima... materiale? Certo, sì, che è poca cosa, che è veramente poca cosa, ma me lo sono posto prima ancora che nascessero e adesso sto cercando di metterlo in pratica. L'amore per la natura, natura intesa proprio come il rispetto per ogni singolo elemento che compone veramente la natura, ma non in senso new age del termine assolutamente, però cioè la formica ha la stessa valenza di un essere umano, e un serpente è bello tanto quanto un cigno. E perché secondo lei questo sarà importante per la crescita e la vita dei suoi figli? In che modo potrà trasmettere felicità? Perché è talmente semplice rispettare un animale, vedere la bellezza della natura, che nel momento in cui predisponi poi la tua vita, l'animo, a rispettare la natura, a capire la bellezza della natura, automaticamente acquisti un modo di pensare, un modo di vedere le cose che ti permette di rispettare poi il prossimo, le persone, e di vivere una vita centrandoti su quali sono poi i principi, per carità, niente di aulico, però insomma centrali. No, è molto, molto pratico e molto interessante. Poi il merito questa sua segnalazione, credo, di essere di facile accessibilità esatto, per i bambini. Grazie a Daniele. Prego, grazie a voi. Grazie mille, buono. Daniele. Rosario, buongiorno. Buongiorno. Lei di figli ne ha? Una. Una, dica. Sì. Allora, è troppo tempo che stiamo insegnando ai nostri figli di fare solo quello che conviene e non gli stiamo insegnando di fare solo quello che è giusto, perché si fa solo quello che conviene, cioè fare cassa conviene, persino le guerre si fanno solo perché convengono. No, in realtà voglio dire, quello che sta succedendo in Medio Oriente succede perché non certo il Medio Oriente è famoso per le coltivazioni di mais, ma perché c'è il petrolio. Se non ci fosse stato il petrolio non avremmo queste situazioni verniciate da ideologia. Dica. Stiamo insegnando solo quello che conviene. Invece? Bisogna fare quello che è giusto. Questo lo dovrebbe fare la politica in primis, diciamo, no? Perché, ripeto, quando si fanno le cose solo per fare cassa, senza pensare alle conseguenze, e poi non si sta facendo quello che conviene, cioè si sta facendo solo quello che conviene. Quindi lei, il senso di fare ciò che è giusto è quello che vuol trasmettere alla figlia, però ci dicono i genetisti, trasmetterà inevitabilmente, e sono sicura senza volerlo, anche i suoi difetti, di questo è conscio. Sì, sicuramente, però è importante fare quello che è giusto e non solo quello che conviene. grazie a Rosario. Buongiorno a chi coi bambini ha a che fare sempre, fin da piccoli. Cristina Petti, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, lei è insegnante di scuola primaria a Bologna. In questo annoso dibattito tra ciò che si impara e ciò che si trasmette nei geni o nell'epigenetica, dovendo spezzare una lancia a favore dell'uno o dell'altro fronte, cosa osserva lei da maestra elementare? Io osservo che effettivamente la famiglia lascia un imprinting molto molto forte, nel bene e nel male, ma parimenti anche altri adulti significativi intorno ai bambini, non solo i genitori che sembrano quelli più vicini, in realtà molti bimbi stanno anche tante ore con altri adulti, può essere la scuola ma anche i nonni o le nonne, quindi in realtà poi ci sono varie teorie che sostengono anche questa cosa che io ho osservato dell'influenza sociale, teoria dell'apprendimento sociale, cioè io sono portata a imitare i comportamenti, per assurdo faccio un esempio, le bimbe quando giocano alla mamma fanno l'imitazione della propria mamma, ma fanno la stessa cosa quando giocano alla maestra, io mi rendo conto che nell'intervallo vedo bimbe che fanno esattamente, dicono esattamente le cose che faccio io, si muovono come mi muovo io, muovono i capelli, si spostano, vanno alla lavagna nello stesso modo. Quindi secondo me c'è un po' un contorno dell'ambiente sociale in cui uno è inserito, non voglio dar solo la colpa ai genitori, poi ci sono alcune abitudini che anche io credo. Sa cosa è straordinario di quello che ci sta raccontando? Adesso mi viene in mente che tutti in qualche modo, fin dall'elementare fino alla fine del percorso universitario, chi si è fermato prima, scuola superiore eccetera, abbiamo avuto degli insegnanti che ci hanno cambiato la vita, poi che lo volessero o meno, ma che sono rimasti per anni anche quando abbiamo interrotto il rapporto con loro perché è finita la classe in cui ci insegnavano, sono rimasti per molti anni dei modelli, e questa è una grandissima responsabilità. Poi lei un giorno, e lo scrive sul suo blog, perché è una maestra moderna, la nostra Cristina Petti ha un blog Maestra Piccola che è eccezionale e consiglio a tutti, ha raccontato anche quello che ha osservato tra un bambino e una mamma nella sala d'aspetto, d'attesa adesso, del pronto soccorso, particolarmente significativo per questo dibattito. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E sono tantissimi i vostri messaggi, 349-238-6666, c'è molto bisogno di empatia in questo mondo disumanizzato, scrive Anna, che ci segue da Pisa, e io voglio trasmettere questo ai miei figli. A mia figlia invece, dice Roberto, voglio trasmettere il modo di vivere all'insegna del non ti curar di loro, ma guarda e passa. Gioia di vivere che svetta ancora in testa alla classifica, ripresa, è stata lanciata da Boncinelli e ripresa anche da un ascoltatore insieme a determinazione, determinazione e gioia di vivere, e ancora rispetto della differenza. Poi ci sono anche delle domande, perché nel delegare tutto alla genetica non si rischia di deresponsabilizzare? Alla fine la scelta è in tutti noi, infatti questo proprio ci si chiede. È molto facile passare la vita magari a cercare di essere l'opposto della propria madre, del proprio padre, e poi quando si cade negli stessi errori dare la colpa alla genetica. E un po' questo tipo di studi, come quello lanciato da Adelaide in Australia, in cui si parla di propensione al fumo, al bere, ai vizi, si prendono in esame solo le caratteristiche negative, al mangiare in eccesso, al perdere il controllo, sarebbero scritte nei geni, geni che però a volte s'accendono, a volte no, cioè sono lì, e l'elemento esterno dell'ambiente può portare all'accensione di questo tipo di caratteristiche. Sentiamo le vostre di segnalazione, andiamo a Latina dove c'è Giorgio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ho chiamato per dire una cosa molto, cioè, io vorrei lasciare, se possibile, ai nostri figli, ai miei figli, la memoria, un gene secondo me che potesse dare tutta la nostra memoria, cioè il ricordo di noi stessi, tutto il fatto, tutto il vissuto e tutto, diciamo anche l'amore e tutte le emozioni che sono state vissute, ecco. Deve essere una cosa meravigliosa. Se c'è un gene che riesce a fare questo, secondo me abbiamo scoperto il segreto dell'universo. Giorgio, glielo isoliamo, adesso ci mobiliteremo. Però è molto bello e questo suo desiderio, la memoria che viva naturalmente anche dopo, quando non ci saremo più. E tra l'altro è un desiderio segnalato da molti padri. Grazie Giorgio per averci chiamato. Ci spostiamo a Bari, dove c'è probabilmente un altro padre. Enzo, buongiorno. Ciao. Ciao, ha figli lei? Sì, ne ho tre figli. Senta, volevo solo dire che vorrei tanto trasmettere ai miei figli il rispetto per il prossimo. Solo quel, che sia bianco, nero, giallo, celeste, giovane, vecchio, povero, ricco. Rispettiamoci l'un con l'altro e forse cambierà qualcosa. Grazie mille Enzo da Bari. A Rovigo, intervento di tutt'altro tipo vedo. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Invece lei cosa lascerebbe ai figli? Ma visto il mondo in cui siamo, l'astuzia e la furbizia, perché se uno è onesto è già di suo, se è leale è già di suo, e quindi rimane questo, che se no non vai avanti, questo lascerei. È molto amaro oggi Marco, questo no, lascerebbe i figli. È la società che ti porta a essere così, non ce n'è discorsi, è così. E come si trasmette la furbizia ai figli? La furbizia, ma con gli insegnamenti, per far vedere, per far capire, poi se devono fare loro la strada, è normale il discorso. Cioè lei dice insegna ai corrotti o chi è arrivato... Ma no, corrotti, tutto il mondo è corrotto, l'Italia è la prima a essere corrotta, quindi non so che ci giriamo intorno. Sano pragmatismo, l'unico modo per andare avanti secondo lei è la furbizia, ed è giusto sentire anche questo tipo d'opinione. Grazie a Marco. Cristina, torniamo a lei che è maestra, a questa sala d'aspetto, d'attesa del pronto soccorso. Cosa è successo? Ma tanto mi dispiace sembrare una piccola ladra di momenti anche intimi tra una mamma e una figlia, però mi sono trovata proprio di fianco e l'ho fatta, insomma, di ascoltare, di osservare. Ma niente, c'era una bimba con una febbre molto alta e doveva essere visitata, aveva una febbre a 39, mi aveva appena detto la mamma, e quindi era chiaramente stanca, non sarebbe voluta essere dove era, magari a casa sua. Succede qualcosa che mi perdo e alla fine la bimba dà un morso alla sua mamma, e la sua mamma un morso molto forte, cioè le ha fatto molto male, e alla sua mamma si arrabbia moltissimo. La piccola, che veramente aveva 4 anni, chiede subito: mi perdoni mamma, mi perdoni, e la mamma comincia a dire no, mamma mi perdoni. La piccola si rimpicciolisce sempre di più, è distrutta, poveretta. Mi perdoni, e la mamma continua a dire di no, e poi dice, ho ripreso la pagina perché sennò non, a memoria non volevo essere più fedele possibile, è andato via il tuo morso con le scuse, guarda è andato via, no, e allora non me ne frega niente delle tue scuse, spero che il dottore ti faccia un po' male così impari, non ti meriti niente, sei cattiva. Ecco, e perché lei ha ritenuto significativo questo... questo quadretto a cui ha assistito, perché l'ha inserito in un blog sull'insegnamento? Perché non si può dire a un bambino che è cattivo. Se vuoi dire che è cattivo, devi aggiungere in questo momento non sei stato. Ma se tu gli dai un imperativo, sei cattivo, cioè un'etichetta, questa etichetta ha detto un giorno, ha detto due giorni, ha detto tre giorni, il bambino diventa veramente cattivo. E questo è molto pericoloso. A me mi è stata consegnata una bambina che si inseriva in una seconda elementare, quindi primo giorno mi è stata consegnata come cattiva dalla madre e mi è stata. Perché cattiva avevano detto che lei era le suore che l'avevano avuta e quasi cacciata dalla scuola, quindi questa bambina si portava questa etichetta di cattiva da tempo e alle 4 quando gliel'ho riconsegnata del primo giorno mi ha detto allora è stata cattiva e io ho detto no, è vivace ma non è cattiva, e per far capire alla mamma che cattiva non è la sua, ci abbiamo messo molti anni e anche la signora ha smesso di usare questo termine, la bimba è rinata, un po' come si può rinascere da situazioni che comunque ti mortificano, ti stringono, non ti elevano, ecco. Non si può dire a un bambino che è cattivo, non si può dire. Grazie, grazie a questa maestra straordinaria che ha questa sensibilità, si chiama Cristina Petit, seguite il suo blog Maestra Piccola, nel cogliere ciò che è importante anche a livello di parole, il peso che hanno poi nell'influenzare il carattere e la crescita, anche se abbiamo aperto questa trasmissione dicendo la genetica, anzi l'epigenetica in qualche modo, non dico che ci condanna, ma traccia la strada su quello che riusciremo a diventare. Ce l'ha detto Edoardo Boncinelli, autorevole fonte, visto che è fisico genetista tra i più stimati nel mondo, e vogliamo capire se ci si può sottrarre. Vi stiamo chiedendo all'800 24 00 24 cosa trasmettereste ai figli: la voglia di seguire le passioni e di essere indipendente dal punto di vista economico, ci segnala Anna. Invece Emanuela parla di empatia, generosità, capacità di aiuto e capacità di autoconoscenza per tutta la vita. Non solo valori morali ma anche quelli spirituali, segnala qualcuno. E c'è poi Costanzo che dice: io l'ho fatto perché gli ho trasmesso quello che volevo, occhi azzurri, onestà e amore per la lettura, molto sicuro. Anna Maria dice che sta trasmettendo l'amore e il rispetto per la famiglia, per le altre persone che incontrerà nel corso della sua vita. Poi c'è chi nomina l'autoironia e il senso dell'umorismo. Andiamo a Catania, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto, la sento. Buongiorno, lei è un dottore, buongiorno. Giusto? Sì, sono un pediatra, tra l'altro. Salve, salve dottore, pediatra giornata. Giuseppe, dica. Sì, esatto. No, volevo soltanto dire che purtroppo la genetica incide sicuramente, però purtroppo il fenotipo, in questo caso l'epigenetica, sì, incide fino a un certo punto, perché il problema oggi dei bambini è che hanno tali e tanti di quegli stimoli in cui i genitori con tutta la buona volontà non riescono più a dare un limite ai bambini. L'unico purtroppo problema di questi tempi dei bambini è di non avere limiti, cioè i genitori non riescono più a dire un no, e questo purtroppo dà ai bambini la libertà di fare disgraziatamente quello che vogliono, nel bene e nel male. E quindi purtroppo bisognerebbe educare partendo dai genitori, perché il problema dell'imprinting che danno i genitori ai bambini, bisogna secondo me incominciare a lavorare dai genitori e non proprio sui bambini. Certo, è interessante questo stimolo, ma perché secondo lei il genitore oggi ha paura di dire no? Cioè perché c'è questa paura, forse paura di essere impopolare? Ma mi ascolti, il problema dei genitori oggi che rispetto agli stimoli esterni, per esempio la pubblicità, il modo di comportarsi, l'uso del computer, il comportamento degli altri compagnetti dei bambini, crea tutto un meccanismo globale in cui il bambino di fatto ormai vede tutto come un sì sempre. E beh, non solo, ma questo sta incidendo pesantemente sul fatto che il bambino non ha più stimoli, incomincia a essere passivo, incomincia a non avere la voglia, tra virgolette, di vivere, quello che diceva il professore. Quella grandissima voglia di vivere, di felicità, i bambini di fatto la stanno perdendo perché non riescono a raggiungere un obiettivo. Perché di fatto gli viene tutto, diciamo, tra virgolette, concesso, e questo ovviamente non dà stimolo al bambino. Grazie, grazie al pediatra che ci ha chiamato da Catania e che ci ha veramente riempito, viceversa, di stimoli molto interessanti, sul quale chiederemo aiuto alla letteratura, perché anche se è stata liquidata così nel riferimento del genetista la letteratura come un passatempo, in realtà è una forma, è una finestra sul mondo che il illumina a volte, spesso più della scienza. Allo scrittore Antonio Scurati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonio Scurati, lei ha scritto recentemente un libro, Il padre infedele, che è racconto in prima persona di una paternità. E quindi noi l'abbiamo disturbata proprio per capire se in questo padre infedele, in cui lo chef, che è il protagonista, ripercorre un po' le tappe dell'incontro con la sua compagna, dall'innamoramento al matrimonio, alla nascita della figlia, si può leggere sotto traccia anche quanto diceva il pediatra, cioè i padri di oggi sono un pochino meno equipaggiati nel compito di educare rispetto ai padri di ieri? Ah sì, indubbiamente. Io innanzitutto mi scuso perché mi trovo all'aeroporto di Napoli, dove ho accompagnato appunto mia figlia e il nipotino per ritornare alle vacanze, quindi se sentirete degli aerei... È completamente azzeccato comunque il contesto. Noi siamo del tutto inequipaggiati. Mi viene in mente una battuta del Signore degli Anelli che dice viaggiamo leggeri, andiamo a caccia di orsi. Noi siamo completamente privi di equipaggiamento, ma per un motivo secondo me di tipo più demografico, nel senso che arriviamo tardi alla paternità. Adesso sono dati statistici questi. Quest'anno in Italia il saldo di popolazione, cioè la differenza tra i nuovi nati e i defunti, è meno 67.000. Ed è il risultato peggiore di sempre, diciamo, questo è sì. Da quando c'è la demografia. Facciamo pochissimi figli, quando li facciamo, per lo più li facciamo in età avanzata, attorno ai 40 anni, e ne facciamo uno. E uno potrebbe pensare legittimamente, li fai più tardi, quindi arrivi più preparato, no? Più si allunga il tempo, diciamo, di vita, di attesa del figlio, più noi giungiamo impreparati alla meta, al compito. Perché? Perché abbiamo speso la prima metà della nostra vita dedicandoci esclusivamente a noi stessi, alla carriera, al lavoro, alla piacevolezza del vivere, a cose del genere, e questo bambino lungamente atteso, con quattro nonni viventi, perché grazie a Dio campiamo a lungo, lo attendono da anni, quando finalmente giunge qualsiasi bambino è il bambino Gesù. Ha questo, io lo ripeto sempre, ma secondo me rende l'idea, ha questo crisma quasi di sovrannaturale, no? Di inviolabilità, e per quello forse, come diceva il pediatra, non si riesce nemmeno a dirgli o a dirle se è una bimba, no, ci segnalava questo dottore. Lo veneriamo come un piccolo idolo, chi più chi meno, insomma, poi tutti noi facciamo del nostro meglio, ma questa attitudine idolatrica nei confronti dei nostri figli è ciò che ci impedisce di esercitare la funzione paterna, che consiste nel dire no. Però io, ricollegandomi all'argomento principale, vorrei dire anche un'altra cosa: ciò che ci riesce molto difficile è proprio di lasciare in eredità ai nostri figli noi stessi e un mondo. Questa notizia della genetica, secondo la quale i comportamenti influenzerebbero poi l'attivazione del genoma, e quindi ciò che noi siamo e ciò che noi facciamo trasmetterebbe una parte di noi ai nostri figli, io penso che non ci spaventi affatto, anzi ci conforti, perché ciò che proprio noi non riusciamo a fare, padre e madre di oggi, ciò che ci mette in difficoltà, che ci fa sentire inadeguati, è il gesto fondamentale del padre, secondo la tradizione. Il padre cos'era nella tradizione culturale? Era l'anello della trasmissione, era colui il quale, qualunque fosse il suo mestiere, che fosse un povero contadino, un ricco possidente, poteva un giorno dire al proprio figlio: guarda, alza lo sguardo, fin dove il tuo sguardo si perde, questo è tuo. Il padre era colui il quale ereditava un mondo dai propri padri e lo lasciava in eredità ai propri figli. Grazie Antonio Scurati. La linea adesso si fa difficoltosa, anche se non sentiamo aerei, ed è interessante, dice Scurati, praticamente dove non arriviamo noi come padri arriva l'epigenetica, è quasi confortante. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E quando nascono questi figli, che in Italia demograficamente si fanno sempre più tardi, l'ha citato Antonio Scurati, che sì, è uno scrittore ma anche un sociologo, per quello ha familiarità con questo tipo di dati, quando nascono hanno già un carattere ereditato in qualche modo per quel che riguarda le situazioni genotipiche, e subiranno inevitabilmente influenze ambientali nel corso della vita, ma poi hanno anche, secondo l'epigenetica, genetica, delle attitudini, delle inclinazioni, delle propensioni che potrebbero accendersi o meno, come dei geni spenti che tutti noi abbiamo in una sorta di bagaglio degli attrezzi e che chissà incidentalmente accenderemo o meno nel corso dell'esistenza. Chiara, buongiorno. Cosa trasmetterebbe lei ai propri figli se potesse scegliere un solo elemento, Chiara? Buongiorno. Buongiorno. Sì, io figli non ne ho, ma è come ne avessi tantissimi, perché ho fatto tante attività di volontariato e ho tanti nipoti. Io ho lavorato tanto appunto con i bambini. Sì, ma è una domanda non solo data ai genitori, come abbiamo sentito dalla maestra prima, ci sono mille adulti di riferimento che contribuiscono alla crescita, alla formazione del carattere anche senza avere un legame biologico con i bambini. Quindi cosa trasmetterebbe? Sì, io trasmetterei la capacità di collaborare e interagire con gli altri, con i nostri simili. Capacità di collaborare in comunità. E interagire in comunità, sì, perché credo proprio che la comunità come nucleo che possiamo paragonare al clan in cui si è evoluto l'uomo dall'antichità sia proprio il punto di partenza che ci permette di superare anche i limiti genetici. Grazie, grazie. Quindi volontà di superare anche i limiti genetici lavorando insieme. Sono molti che parlano anche di fare il politico. Voglio che mio figlio capisca che deve fare il politico, ci segnala Renzo, perché così ha un futuro assicurato. Si ondeggia tra il cinismo e la poesia nei vostri messaggi. Trasformare anche e la capacità di vedere la realtà in autoironia. E poi c'è chi commenta quanto detto dall'ascoltatore precedente dicendo che trasmettere la furbizia è una tristezza infinita. Un messaggio che arriva da Roma. Alex Corlazzoli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Maestro di scuola primaria, lei è un blogger ma è anche un giornalista e ha sentito i mille stimoli che sono arrivati dai nostri ascoltatori su questo tema. È un po' triste pensare di essere determinati in tutto e per tutto dalla genetica. Lei che è maestro, quindi con i bambini ha sempre a che fare, crede che arrivino già fatti, formati e predeterminati anche sui banchi di scuola? Mi sembra che le parole di Boncinelli siano state in qualche modo lungimiranti e anche chiare rispetto al fatto che non solo la genetica insomma determina, e infatti anche a determinare il carattere gli eventi della vita. Mi viene in mente quando il volto di quell'alunno proprio quest'estate, qui gli è morta la madre, è un lutto quanto può cambiare la vita e il carattere, chiaramente il carattere soprattutto di un bambino, rendendolo più forte o rendendolo più dolce, rendendolo in qualche modo più plasmato a quelli che sono gli eventi. Oppure viene in mente il volto di Daniele che vive la sua violenza a seguito di una separazione, ma che in realtà ha un carattere ben diverso. E ancora il volto di Daniel invece, che arrivava dalla Lituania, da un orfanotrofio dalla Lituania, in prima elementare alzava il dito medio ai maestri piuttosto che diceva parolacce anche pesanti insomma agli altri bambini di 6 anni. Non era certo il carattere genetico di Daniel in sé a essere così violento, a essere così aggressivo, ma era quella vita in orfanotrofio. Basta pensare di prendere un ragazzino di un quartiere dello Zen di Palermo piuttosto che di Scampia e tutto un tratto portarlo invece in una famiglia borghese di Milano o di Parigi. Quanto può cambiare il carattere di un bambino a seconda del contesto in cui sta? Io lo vedo un po' tutti i giorni questo, in classe, quando arrivano i bambini che arrivano da contesti familiari ma anche da contesti ambientali diversi in qualche modo. E rispetto a lei ha nominato, Alex, quello che è il caso tipico che si solleva quando si affrontano questo tipo di discussioni, gemelli omozigoti per esempio, fratelli separati alla nascita, inseriti in contesti diversi, che tipo di prodotto daranno nel corso degli anni, che persone saranno? Ma lo si può osservare anche tutti i giorni tra fratelli. Lei è maestro, le sarà capitato di essere maestro, di insegnare a dei bambini e alla sorellina, a dei bambini e al fratellino, e notare comunque, nonostante questo contesto ambientale a cui lei fa riferimento, dei comportamenti e caratteri anche diametralmente opposti. sicuramente, c'è sicuramente un filo comune, insomma, nei fratelli si nota sicuramente quello che è stato determinato soprattutto dalla famiglia, insomma, lo si vede, ma esce anche sicuramente un aspetto che invece quello da genetico, allora, che è veramente diverso da quello che è il filo comune. In fratelli può capitare di avere, vengono in mente i volti proprio di due fratelli che ho avuto, uno che non gli interessava per esempio assolutamente niente della musica, di tutto ciò che era la creatività eccetera, mentre l'altro invece era appassionato al violino piuttosto che tutto ciò che era creativo, e allora anche qui le tipologie diverse. Grazie ad Alex Corlazzoli soprattutto per questo riferimento alle caratteristiche positive e alla musica. Grazie poi ad Alessandro Longoni, a Laura Faggina, ad Alessandro Marco Tulli, a Lucia Tolve, tutti quelli che hanno collaborato a questo Spunti di Vista. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Stiamo concludendo. Da Irene Zerbini l'augurio di una radiosa giornata e l'appuntamento è per domani mattina alle 8:10.